noi fummo morte in van cercai. Questa sisa ch'io vesto vedeca che il mio re la mia patria difeso. Fu la sorte a nostra arme nemica, tornavano dai farti l'ardir. Al mio piede nella polve distesa, già quel re da più colpi trafitto, se la mordella poi